Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui a 42 La Risposta, bentrovate, bentrovati, siamo all'interno della rubrica Riscoperte. Ciao Maria. Ciao Silvia. Sì, siamo a Riscoperte, una sorta un po' di spin-off di 42. Siamo partite quest'anno parlandovi di Sotto il Vulcano, che era stato ritradotto dopo mezzo secolo. Vi abbiamo parlato qualche settimana fa della Bastarda della Caroline, anche quello tradotto dopo 26 anni. E oggi vi parliamo di un altro libro recentemente riscoperto e ripubblicato. Sì, si tratta di Fantasie di stupro di Margaret Atwood. Il titolo originale bellissimo è Dancing Girls, è una raccolta di racconti di cui ultimamente si parla molto, anche perché è stato ripubblicato proprio quest'anno per Racconti Edizioni. Sì, e non tutti sanno appunto che questa invece è una ripubblicazione di una raccolta che è apparsa in Canada nel 77 ed è stata tradotta, pubblicata per la prima volta da La Edizioni nel 90 e poi dalle Edizioni La Tartaruga nel 91. Ricordi Maria La Tartaruga, sì, famosa la casa storica. Editrice femminista che adesso sta dando tanto tanto materiale alle nuove case editrici. E la nostra autrice, la Atwood, ha una produzione molto vasta tra poesia, narrativa, sia di romanzi che di racconti brevi. Questi ultimi sono quelli, diciamo, meno conosciuti o considerati tra tutte le pubblicazioni. Pensiamo per esempio al successo di quest'anno del romanzo Il racconto dell'ancella. Per questo ci è venuta subito la tentazione di parlarne, perché a volte, proprio nei libri dimenticati, anche all'interno di una produzione così ricca come quella della Atwood, si rivelano più chiaramente i temi, i tagli tematici, i percorsi narrativi. Sì, poi dicevamo nella primissima puntata di questa stagione in 42 che siamo una ciurma pirata e quindi ci piace scoprire tesori nascosti. Questa raccolta è un piccolo grande tesoro. Sì, che da riscoprire. Sì. Sono 14 racconti, 14 storie che hanno come protagonisti questi racconti, tutte delle donne, tranne in un racconto. A queste donne sono affidate sia la narrazione che il punto di vista. Vediamo questi personaggi pieni di dubbi, frustrazioni, insicurezze, infelicità. Tutte sono accomunate dal fatto di non sentirsi a loro agio nel ruolo in cui sia le loro storie d'amore e sia la società le hanno ingabbiate e racchiuse. Le vediamo invece però, per quello che ci interessa, nel loro percorso di uscita. Le vediamo in un processo di liberazione a partire dal loro corpo, che è comunque un corpo, lo vediamo, sempre ferito, alienato, invisibilizzato e umiliato sia da tradimenti che da incuria, sul quale anche tra l'altro gravita sempre un certo senso di colpa e una certa vergogna, proprio per il fatto di non essere stato rispettato. Ed è infatti questo il filo conduttore di questi 14 racconti, vari per tematiche, ma che messi insieme rappresentano un quadro variopinto del mondo delle donne e del loro sentire, con le loro paure, le loro speranze, ma soprattutto un quadro del percorso di trasformazione necessario che segue l'uscita da uno stallo, da una palude, da un dolore, una ferita, una vergogna, una situazione di disagio. Sì, tutta la letteratura di Margaret Atwood si muove proprio in questo spazio di svolta, di passaggio, lo dicevi tu anche prima. È un passaggio da un mondo patriarcale a un nuovo mondo femminista. Siamo comunque negli anni 70, quindi è un grande momento di cambiamento. Lo vediamo in queste figure di donne protagoniste di queste storie. Bisogna anche dire che questo passaggio è tutt'altro che indolore. Infatti vediamo lacerazioni, dubbi, insicurezze, però anche tanta illuminazione e tanta forza. E in mezzo troviamo smarrimento e perdita della bussola, una volta che appunto sono stati abbandonati gli strumenti di una società patriarcale che ingabbia i corpi in involucri fin troppo stretti e che danno direttive su desideri e sull'esistenza delle persone. Sono donne che si scavano dentro in profondità. E a caro prezzo, diremmo, no? Il prezzo è alto, sì. Il prezzo del dolore, della solitudine, ma queste donne arrivano a stravolgere completamente in modo radicale i paradigmi sociali che fino a poco tempo prima sembrano un po', sembrano condanne ineluttabili. Sì, e c'è in questi racconti anche la chiara volontà di superare il mito della superiorità femminile, no? Le donne sono migliori. Esatto, perché è un'arma a doppio taglio, senza dubbio crea un senso pesante di responsabilità, il dover essere sempre migliori, perfette, impeccabili. Contemporaneamente c'è anche lo sdoganamento felice dell'imperfezione di queste donne, con tutte le loro paure, da quella dell'abbandono a quella del non essere amate o non essere amate abbastanza, la paura della solitudine, dell'inadeguatezza, dell'alienazione in una terra, in una società spesso ostili e violente. Ecco, noi ci fermiamo un attimo, vi facciamo ascoltare le War Paint che ci accompagnano per tutta la puntata e vi facciamo ascoltare Elephant, una bellissima canzone. Bentornati in studio, sempre qui a 42 La Risposta. Stiamo parlando della bellissima raccolta di racconti di Margaret Atwood, Fantasie di stupro. E dicevamo, Silvia, stavamo raccontando appunto che i personaggi di questi racconti sono delle donne. Sì, e dicevi prima, parlavi di sdoganamento felice dell'imperfezione, ecco. Sono donne che finalmente non temono più di dire «ho paura». Quindi dimentichiamoci l'angelo del focolare, sono donne che non si caricano più di anche di quella funzione di contenimento dell'altro, spesso del maschio, ma in generale di qualcun altro, e sono donne finalmente concentrate un po' su di loro, sui propri desideri e sulla riappropriazione della propria vita. In un'intervista del 1978 la Atwood fa anche un parallelismo molto, molto interessante tra la condizione ancora sottomessa della donna e la storia del suo paese, il Canada. Lei dice: le donne, come i canadesi, sono state colonizzate o sono state vittime di un imperialismo culturale. Quindi c'è da un lato la volontà di decolonizzarsi dallo strapotere della letteratura nordamericana e dalla subordinazione culturale dagli Stati Uniti, perché ricordiamolo, il Canada è una sua ex colonia, e l'intenzione anche di creare una voce narrativa canadese, e parallelamente una decolonizzazione della donna dal potere patriarcale. A me piace molto questo parallelismo che ha fatto. E infatti le donne dei suoi racconti, delle sue poesie, come dei suoi romanzi, contemporaneamente a questo percorso di liberazione personale, collettivo e del corpo, sono anche sempre alle prese con un incontro-scontro con la propria terra, il Canada. Dentro il Canada, proprio per raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, insieme a tutte le contraddizioni, gli impulsi, a volte anche autodistruttivi, ma impulsi che ruotano sempre tra morte e rinascita, tra frustrazione e riappropriazione di vitalità. Nell'ultimo volume delle interviste della Paris Review, che è appena uscita, è tutta dedicata a grandi scrittrici da Grace Paley, Dorothy Parker, Toni Morrison, De Beauvoir, Yourcenar, insomma ce ne sono tante, sono tutte molto molto interessanti. C'è anche un'intervista alla Atwood. Lei dice: capita spesso che gli uomini mi chiedano perché i suoi personaggi femminili sono così paranoici. Non è paranoia, è riconoscimento della propria situazione. Ecco, è sempre nella stessa intervista, tra l'altro, lei insomma, polemizza sul fatto che le donne in alcune parti del mondo hanno ancora molta difficoltà a essere pubblicate, e c'è anche ancora meno possibilità di trovare recensioni scritte da donne. Infatti dice: la maggior parte dei libri che arrivano al pubblico sono scritti da uomini e recensiti da uomini, e noi lo confermiamo, perché sì. Non è cambiata molto la situazione. Oltretutto le varie recensioni, che sono moltissime, che sono uscite su questa raccolta di racconti, parlano sempre, quasi sempre si concentrano su il primo racconto, che è quello che dà il titolo appunto alla raccolta, Fantasie di stupro, che però come ricordavamo prima non è il titolo originario della raccolta, ed è veramente un peccato abbiano tenuto il titolo originale, Dancing Girls, ragazze che ballano. Ha anche un senso di liberazione, ragazze che ballano. Esatto. Dava tutt'altro senso. In queste recensioni, dicevamo, c'è sempre, quasi sempre solo è recensito il primo racconto, forse proprio per questo titolo così disturbante, forte, no? Mentre tutti gli altri racconti sono relegati in secondo piano. Però tutti insieme poi questi racconti ci ridanno il senso del libro. Ricordate, ci sono racconti di una semplicità, di una bellezza, io direi, sconvolgenti. Mi vengono in mente Sottovetro e La tomba del poeta. Nel racconto La tomba del poeta vediamo una coppia in gita per visitare la tomba di, appunto, di questo grande poeta, che è Dylan Thomas. Però questa gita si trasforma ben presto in un ultimo viaggio funereo, possiamo dire, verso la separazione definitiva. La narrazione dal punto di vista di lei, è un personaggio che, come anche in tanti altri racconti di questa raccolta, non ha nome. E consumano lei e appunto vediamo questo marito, questo compagno, consumano i resti del loro amore che è probabilmente morto da parecchio tempo in un'ambientazione di decadenza. Ci sono ruderi nel giardino, aiuole infestate dalle erbacce, tutto abbandonato un po' a se stesso. Lo raggiungo nel cortile principale. È tutto in stato di disfacimento. Le scalinate, i bastioni, i merli. Sono crollate talmente tante parti che è difficile ricostruire, ricondurre queste rovine al loro progetto iniziale. Ecco, queste alcune delle parole in cui viene descritto il rudere del castello che loro visitano. Esatto, però la parte interessante di questi racconti è che poi queste donne prendono consapevolezza e agiscono la loro volontà. Infatti la vediamo questa donna alle prese proprio di con la convinzione, la consapevolezza che è il momento di lasciarsi andare in modo reciproco e anche di uscire da un ruolo di vittima. Lei sente il corpo di lui solo come carne, come una specie di cadavere animato, svuotato dalla sua essenza, e capisce che per loro non c'è più linguaggio possibile dopo tante ennesime prove. Metaforicamente lei seppellisce il loro amore avvertendo come uno sgretolamento del corpo di lui che si dissolve nel suo abbraccio o anche in un atto sessuale. Poi c'è l'altro racconto che citavi prima, Sotto vetro, veramente forse il racconto bellissimo, più bello della raccolta. In questo racconto vediamo una donna inizialmente incapace di reagire attivamente al tradimento del suo compagno. Vediamo la sofferenza profonda dell'incuria di lui, delle sue mancanze, dei suoi tradimenti, e tutto questo all'inizio sembra impedirle di reagire, forse per paura di perdere anche quel poco, non so, quel dolce incontro delle mani, quel momento amoroso in cui lui le appoggia la testa tra le scapole, le briciole, esatto, le briciole di un rapporto. E appunto sembra emergere una certa passività nell'accettare ciò che invece poi in realtà è inaccettabile. Sì, infatti sogna di diventare come le piante di pietra che riconosce in uno dei suoi lunghi pellegrinaggi solitari alla serra. Vuole diventare come loro di pietra, mimetizzarsi come per non essere divorate, immobilizzarsi anche per non sentire, per diventare un essere, diciamo, a cui malapena scorre del sangue nelle vene. Perché? Perché sarebbe troppo doloroso e anche vergognoso spesso ammettere un fallimento, ammettere di non essere stata rispettata o amata come lei avrebbe voluto. Quindi continua a lavare i piatti, pulisce la cucina mentre lui è a letto, non ha cura di lei, di quello che fa per lui e per la coppia, insomma, continua. E lei comunque ha questa ostinazione continua a preoccuparsi che lui mangi bene, che prenda addirittura le vitamine. Gli dice: hai preso le vitamine? Dai Silvia, lo so che vuoi citare il Samorante perché lo fai, ecco, di. Sì, lei diceva che cos'è l'amore? E la domanda: hai mangiato? Sì, mi piace spesso citarla, la trovo geniale. Però dicevamo passività, come una resa, la vergogna anche, ma cosa c'è d'altro? Perché invece vi stiamo parlando di questo racconto? C'è dell'altro, perché verso la fine pare che lei abbia una gran voglia di verità, di disvelamento, ha l'illuminazione quasi di pensare, citando un po' Pavese, che i rami secchi prendano fuoco definitivamente. Sì, leggiamo una parte molto bella. È la pausa durante la fine del mondo. Come ci si deve comportare? L'uomo che diceva che avrebbe continuato a curare il suo giardino ha qualche significato per me? Lo avrebbe se ci fosse soltanto un piccolo finale, il mio. ma non siamo più condannati di qualsiasi altra cosa. Il mondo è già morto. Da un momento all'altro la baia si vaporizzerà, le colline intorno si solleveranno nell'aria, gli spazi si ridurranno fino a svanire, nei cimiteri le tombe si apriranno per scoprire teschi rinsecchiti, la sua croce di legno si infiammerà come un fiammifero, la casa imploderà, ciarpame e cianfrusaglie. Fine del linguaggio. Invitiamo davvero a leggerlo questo racconto perché è davvero bellissimo. Però farei a questo punto una piccola pausa. Cosa ci ascoltiamo, Silvia? Continuiamo con le War Paint, vi facciamo ascoltare White Out. Buon ascolto. Bentornate, bentornati in studio, siamo qui a 42 La Risposta in compagnia della bellissima raccolta di racconti Fantasie di stupro di Margaret Atwood e parlavamo di alcuni dei racconti più interessanti e a questo punto forse dobbiamo soffermarci su quello che dà il titolo a tutta la raccolta. Che come dicevamo prima nell'edizione italiana ha più risalto anche perché compare come primo racconto mentre invece nell'edizione originale è uno tra i tanti. Però ha un suo perché, adesso lo scopriamo. Esatto, intanto di cosa parla? Quattro amiche si ritrovano durante una partita di bridge chiacchierando insomma tra di loro e una lancia la domanda che all'inizio sembra un po' scomoda, forse fastidiosa, come un tabù: avete mai avuto fantasie di stupro? Sì, poi capiamo da subito il tono ironico e divertente del racconto dell'Atwood, che sembra sia l'argomento. E proprio attraverso questa autoironia molto tagliente si inverte la narrazione. Queste donne, mentre si raccontano appunto questi loro sogni, alla fine usano proprio nella loro invenzione, nelle loro fantasie, usano la parola e la comunicazione, a volte addirittura un fiume di parole, che intontiscono alla fine il violentatore di queste loro fantasie. Quelle che noi chiameremmo o definiremmo insomma vittime, in realtà sono donne capaci di una grande fantasia, grande ilarità e ironia, ed è questa la chiave del racconto. Sì, per esempio la parte in cui queste donne immaginano di stordire lo stupratore con frasi come «bisognerebbe essere una sorta di depravato per voler violentare una con un raffreddore come il mio, sarebbe come violentare una bottiglia di Fluimucil come mi cola il naso», no? È divertentissimo. È molto divertente. Oppure c'è un'altra di queste donne che si immagina la scena in cui appunto consiglia al suo violentatore il suo dermatologo, perché lui è ricoperto completamente di pustole, e lui crolla nella sua insicurezza e iniziano a parlare. Sì, veramente tanta immaginazione lato. Sì, e tanta ironia spiazzante che, come dicevamo prima, inverte completamente la narrazione e il ruolo di vittima carnefice. Certo. Il tema forte della violenza però resta, no? Della violenza sulle donne. Ed è la stessa Atwood a ricordare che ai tempi dell'università a Cambridge era pericoloso persino uscire dal campus la sera. Lei dice che non si era mai preoccupata fino ad allora di aver chiuso la porta, di non uscire di sera, invece da quel momento in poi ovviamente ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, no? E diceva che chi scampava a un'aggressione era, si poteva considerare la sopravvissuta. Questo tema della sopravvivenza e delle sopravvissute c'è molto caro, ne abbiamo parlato anche nella puntata su Dorothy Allison. E, infatti, come ricorda la stessa Atwood, nel 77 si verificava un'aggressione sulle donne ogni 8 secondi negli Stati Uniti. Quindi il tema è centrale, la violenza sulle donne. Però l'Atwood, attraverso questa narrazione ironica, appunto scardina completamente le dinamiche. Si vede appunto, si vedono queste donne che sono delle sopravvissute e sono molto ironiche, molto divertenti, e il carnefice all'improvviso diventa ridicolo, inadeguato e come privato del suo presunto potere, insomma della sua presunta forza. E appunto sono racconti che spostano il centro proprio narrativo, tematico, più che sulla violenza, ma sulla capacità di resistenza, perseveranza e sopravvivenza. Forse proprio come quello che dicevamo per Dorothy Allison, no? La presa di parola, la comunicazione, l'autonarrazione diventa a sua volta un mezzo di sopravvivenza, no? Sì, per non parlare, comunicare, prendere parola, come dicevi tu prima, è un modo per non trasformarsi in vittime e anche, potremmo dire, per non lasciarsi sempre raccontare da qualcun altro, come spesso accade. Come spesso accade, sì. Ecco. Quindi, anche se con ironia e sarcasmo, lo ripetiamo, il tema della violenza sulle donne è il tema centrale della raccolta. Ed è raccontata esattamente per quella che è, cioè una questione di potere patriarcale dell'uomo sulla donna. Ma appunto, invertendo la dinamica di potere, le donne parlano e trovano modi di sopravvivere. Bene Silvia, siamo arrivate al termine, alla fine di questa puntata, e vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook 42 La Risposta, il nostro sito www.42larisposta.org, e se vi va a interagire un po' con noi. Vi aspettiamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 13 su Radio Città Fujiko con una nuova puntata. E vi lasciamo con l'ultima canzone delle Warpaint, New Song, e buon ascolto, buona lettura e soprattutto buona presa di parola a tutte.